nostro cavallo di battaglia, che è Roberto Anedda, direttore marketing di Mutui Online. Ben trovato. Grazie, salute. Ben ritrovato a voi. Ecco. Devo nitrire. Fino a quando almeno abbiamo Mario Draghi in sella alla Banca Centrale Europea, sempre a proposito di cavalli, ormai stamattina mi sono avventurata su questo terreno. La scuderia. Vedi? Esatto. E poi così. Allora, oggi è il cavallo. Il nostro puro sangue europeo. Esatto. Prima io sono... Ci sono, esatto, tantissime scalpito domande. Scalpito per tornare. Sono lo sceriffo io. Tu stai zitto, sono il capo dei banditi. Sono lo sceriffo io. Ma su furia si sta anche in tre. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Oggi alleniamo i nostri neuroni. Un'idea geniale, che dici, Deborina? Genialissima, come tutte quelle che abbiamo. Certo. Modestamente. Comunque, fa sempre bene perché, come tutti i muscoli del nostro corpo, anche il nostro cervello ha bisogno di esercizi, cure, attenzioni per mantenersi in forma. Allora, quello che vi proponiamo oggi è una seduta di fitness mentale. Non ci sono controindicazioni. Fidatevi, affidatevi. Non è difficile, non è faticoso. Al posto di pesi, ciclette, step, noi utilizzeremo esercizi, pensieri, risate, meditazione. Mangeremo forse anche qualcosa di buono. Insomma, una puntata, come si dice, stimolante, in cui siete naturalmente invitati a partecipare. Scegliete voi se in qualità di brain personal e quindi per darci consigli, oppure in qualità di allievi. 800 24 00 24. In ogni caso, alleniamoci insieme, prepariamoci a un appuntamento che ci aspetta, un appuntamento molto importante ci aspetta a partire dalle 11:45, in cui impareremo molte cose. Torneremo a scuola, Deborah, diciamo così. Proviamo almeno a farlo, a riportare sui banchi di scuola i risparmiatori che magari hanno qualche lacuna sui temi di risparmio e di investimento, perché sono difficilmente digeribili, qualche volta lo dobbiamo ammettere. Mi siedo allora già in prima fila, dai. E allora, da oggi e ogni giovedì ricominciamo a studiare un po'. Lo facciamo con la tua materia preferita, Nicoletta, no? Ti parlo di denari, risparmio. Sei contenta? Moltissimo, non vedo l'ora. Alle 11:45 scalpito, esatto. Anche se oggi non è più la giornata del cavallo, cavalli, no? Allora, mi incammino. Allora, noi lo segnaliamo subito ai nostri ascoltatori. Oggi apriamo le porte di Investire Informati, una nuova rubrica in cui cercheremo di fare chiarezza puntata dopo puntata sui temi del risparmio. Oggi parleremo di fondi di investimento, perché pensa che oggi l'industria del risparmio, gestito proprio oggi, 4 dicembre, celebra il suo 30° compleanno. No. Per cui poi i nostri ospiti dovremmo ricordarci di accendere le candeline, magari. Santa Barbara. E anche il... Hai visto quante cose? E anche il compleanno, il compleanno di una persona bambine che conosciamo bene. E allora, chi si è già avvicinato a questo mondo e ha dei dubbi, oggi può farci le sue domande, mentre chi si sente molto lontano per varie ragioni potrà mettersi nell'ottica di apprendere qualcosa di nuovo. Partiamo con Investire Informati alle 11:45 e intanto voi partite con le vostre telefonate all'800 24 00 24. Il medico mi ha controllato, mi ha fatto tutte le analisi e mi ha tranquillizzato. Mi ha detto, dice, lo vede, l'elettroencefalogramma è piatto. Ah, vabbè, meno male, almeno questo. Però, a quanto pare, nella TAC si è evidenziato che io qua in testa c'ho tipo una noce grande così, proprio piccola, colore nocciola, che lui clinicamente l'ha chiamata cervello, può essere? Allora, iniziamo ad allenare la nostra noce nocciola. Ci aiuta il nostro professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo, presidente di Assomensana. Assomensana, lo ricordo, è l'associazione impegnata a individuare le strategie per sviluppare e potenziare le capacità del nostro cervello. Noce, nocciolo, nocciolina che sia. Buongiorno, professore. Buongiorno, Nicoletta. Buongiorno. Benvenuto. Deborah, grazie e bentrovate. Buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Allora, professore, lei oggi ci guiderà nella prima parte parte della nostra trasmissione, che diciamolo chiaramente, Deborah, sì, può essere a tutti gli effetti considerata una seduta preparatoria per affrontare in piena forma e al massimo delle nostre capacità la scuola di risparmio. Ottimo. Che inizierà alle 11.45. E allora lo riportiamo anche nei prossimi giovedì, professor Iannocca. Continuiamo, lo teniamo qua, sì, che così ci allena. Allora, occorrente per la puntata di oggi, un cervello, voi ce l'avete, il dottore lo mettiamo noi, ce li abbiamo tutte e due, un numero verde 800 24 0024. Professor Iannoccari, di che cosa altro abbiamo bisogno? Magari lei ha bisogno delle informazioni aggiuntive, sì, io l'ho fatta troppo semplice. Beh, io aggiungerei altri due ingredienti, sì, che sono fondamentali. Due conduttrici brave, belle, simpatiche. Torni subito domani volendo. E tantissimi ascoltatori pronti e motivati ad ascoltare quello che noi gli proponiamo. Allora, professore, noi possiamo capire facilmente se i nostri muscoli sono allenati e tonici, basta uno sguardo, ma per capire se il nostro cervello è in forma, lavora bene, dobbiamo metterlo alla prova, e qui la cosa un po' si complica. Come facciamo a capire se il nostro cervello porta bene i suoi anni, se la sua efficienza è in linea con l'età anagrafica? Per renderci conto se il nostro cervello è in linea con l'età anagrafica è necessario testarlo di tanto in tanto. Innanzitutto è importante che i processi di attenzione, quindi la capacità di osservare tutto quello che ci capita, quello che ascoltiamo, sia efficiente. Poi anche la memoria deve rispondere, deve essere al nostro servizio, va bene, con i tempi che gli sono dovuti, ma è importante che sia così. Anche la velocità di elaborazione delle informazioni deve essere adeguata. Quindi rapidi. Rapidi. Ecco, se vogliamo possiamo anche fare un piccolo test per capire a che punto siamo. Perché sta guardando iniziamo, sai com'è a scuola, che uno inizia a si nasconde, sì, fa cadere una matita, gira la faccia, gira lo sguardo. Ok, dai, siamo pronti anche con l'aiuto dei nostri ascoltatori, che invitiamo a chiamarci, a mettersi un po' in gioco. Che dobbiamo fare, prof? Vi propongo tre parole. Sì. Okay. Ecco, queste possiamo parole possiamo scrivere? No. Vedi, bara già, dai, spariamo le parole. Le parole sono tre. Io vi chiederò velocemente di leggere le lettere, cioè di ripensare le lettere al contrario, per cui se dico per esempio rana, A-N-A-R, sì, ok? Conta molto il tempo. E faccia semplice, ala, radar. Va bene, allora quali sono le parole? Le parole sono testa, radio, sì, luogo. Testa, radio, luogo. Dobbiamo ripeterle al contrario. Cioè esatto. Lettera per lettera. Ma lei ha parlato di rapidità, ci deve rapidità, essere un tempo. Il tempo è di 10 secondi se abbiamo meno di 50 anni, oppure se abbiamo più di 50 anni, ogni 5 anni in più aggiungiamo un secondo. Quindi 55 anni, 11 secondi, 60, 12 secondi e così e via. Non c'è limite. Questo è il nostro tempo. Quindi è inutile, Deborah, barare, perché così uno può anche inventarsi altre tre parole a suo piacimento, può mettere anche delle parole più lunghe, Nicoletta, Deborah, Giuseppe, Alfredo, e provare ad andare indietro. Naturalmente si può concedere un pochino, una manciatina di secondi in più, però è una sorta di allenamento, perché che cosa mette in moto questo esercizio, innanzitutto, professore? Innanzitutto la concentrazione, perché dobbiamo rimanere concentrati sulle parole ed evitare di essere distratti da qualcos'altro. Poi è necessario che la nostra memoria a breve termine funzioni bene, perché che cosa succede? Noi visualizziamo le parole e le rileggiamo al contrario, per cui anche questa memoria deve essere tenace. E poi è importante anche essere rapidi, perché richiede un tempo di elaborazione abbastanza veloce per stare nei 10 secondi più uno e così via. Allora, noi oggi, tra l'altro, adesso ci alleniamo con la scuola di risparmio, metteremo proprio alla prova il nostro cervello, sperando che non gli venga l'ansia da prestazione, perché sennò siamo rovinati. No, oggi partiamo leggeri. Partiamo leggeri, ma scenderanno in campo tre funzioni, la memoria, l'attenzione e la concentrazione. Saranno proprio queste funzioni che il professor Iannoccari ci aiuterà ad allenare, ma naturalmente ci sottoporrà anche ad un test d'ingresso, perché bisogna vedere a che livello, no? Siamo, a che livello partiamo. Ma abbiamo già molti dei nostri ascoltatori in linea, chissà se sono pronti per farsi testare magari una funzione cognitiva, per raccontarci come si mantengono giovani. Chiediamolo direttamente a loro, cominciamo come sempre con una gentil signora, Francesca da Genova, benvenuta all'800 24 0024. Come si allena? Vedo che lei ha già la sua ricetta. Grazie. grazie. Beh, complimenti della trasmissione, intanto, che seguo sempre. Brava. Con interesse. E niente, parlando di questo, introducendo questo argomento, ho pensato di chiedervi se il fatto di fare quei giochini elettronici, diciamo all'iPad, tipo quelle delle caramelle che vengono, che uno deve praticamente deve vedere mille cose, spostare gli occhi. Candy Crush. Esatto. Come sa, eh? So. Ho giocherellato un po' anch'io, Francesca, poi mi sono stancata però. Ma io ogni tanto ci vado, poi ogni tanto lo cancello perché dico basta, perché ho paura, non so se... Di che cosa paura? Per curiosità, se diciamo, può essere diciamo un qualcosa che mi può far venire un po' scema, diciamo, oppure potrebbe anche, non so, aiutare. O magari troppo intelligente, Francesca, no. C'è anche questo rischio. Professore, non è che se ci alleniamo diventiamo troppo intelligenti, perché poi è difficile gestire tutta questa... Accettiamo allora, il rischio. Vanno bene questi giochini? Questi giochini vanno bene, innanzitutto vale il principio qualcosa meglio che niente, sì. Per cui vanno bene i giochini, questi hanno il pregio di mantenerci concentrati sul compito, sì. E per noi questo è importante perché la concentrazione è una delle gambe della memoria. E poi anche il... riorganizzare le palline piuttosto che le caramelle in un certo modo per riuscire nel gioco, anche questo allena per esempio le funzioni esecutive, che per noi sono importantissime, cioè la capacità di pianificare, organizzare ed eseguire i compiti, per cui direi proprio che va bene. Però io credo, professor Iannoccari, che il nostro cervello ha bisogno di una dieta un pochino varia, un po' come il nostro organismo. I nutrizionisti suggeriscono di variare la dieta, certo. E anche il nostro cervello ha bisogno di diversi stimoli. Ci sono invece tante persone che si allenano, dico, io faccio sempre le parole crociate, va benissimo, però in questo modo si tende ad allenare solo alcune funzioni, non altre. Invece noi dovremmo cercare un pochino di accontentare tutte le funzioni, potenziarle, allenarle, tenerle sveglie. Sì, Nicoletta, è come se fosse il fisico, è opportuno riscaldare, è opportuno allenare tutti i muscoli, non soltanto qualcuno. Il fatto che nella vita la routine ci tende a far fare sempre gli stessi compiti ci specializza verso qualcosa e magari tralasciamo qualcos'altro, per cui sono assolutamente d'accordo che è importante alternare e variegare le attività in modo da allenare tutto. Vedi. Diversificare. Che sarà la nostra parola d'ordine, una delle tante della seconda parte del nostro programma oggi. Ricordate anche questa parolina, chissà mai. 800 24 00 24. Ci sono degli ascoltatori che ci scrivono: mi sono scordato le parole, le tre parole. Antonio invece dice che le ha ripetute al contrario in 8 secondi. Chissà se dice la verità, ma noi ci crediamo. Noi ci crediamo, però uno se le può inventare queste tre parole, può misurarsi con le parole che vuole, ogni tanto ripetere questo esercizio, ma poi segnatevi anche gli esercizi che ci suggerirà in questa parte della trasmissione il professor Iannoccari. E allora, professore, parliamo della memoria. Come esistono diversi tipi di intelligenza, noi sappiamo che esistono anche diversi tipi di memoria divisi per ambiti e specializzazione, un po' come succede per i muscoli del nostro corpo. Se si lavora sempre solo sugli stessi gruppi muscolari si perde elasticità ed armonia, così come se si fa uso sempre e solo ricorso di alcuni tipi di memoria su cui magari siamo più facilitati. Ad esempio, io ho una buona memoria visiva, mi appoggio sempre su quella lì. Professore, come possiamo dare un voto, valutare la nostra memoria? Ce ne lamentiamo sempre? Ci dia un'indicazione per capire come siamo, da che livello partiamo? Intanto riprendo la sua indicazione relativa alle memorie, perché di memorie in effetti ne abbiamo tante. La natura, che è un ottimo ingegnere, ha pensato di strutturare queste memorie, che saranno più di una dozzina se le contiamo, come se fosse lo scafo di una nave. Le memorie sono divise in comparti stagni. Se qualcuna inizia a prendere acqua non è un problema, perché le altre rimangono a galla. Le sorelline. Poi ce ne sono alcune che sono più forti di altre, perché le alleniamo di più, perché la natura ci ha dotato in questo modo. È importante mantenere quelle che funzionano bene, è importante anche allenare quelle che invece non utilizziamo spesso. Se vuoi. E quindi potremmo partire anche dal tipo di professione che svolgiamo, perché sì, possiamo anche raccontarla al professor Iannoccari, perché magari noi, Deborah, utilizziamo un tipo di memoria, perché tutti i giorni facciamo, no, un nostro tipo di lavoro, ci fa leggere magari dei documenti, siamo su internet, magari ci sembra eccetera di essere molto allenate nel nostro cervello, in invece siamo zoppette per un altro tipo di memoria. Quindi un'indicazione questa potrebbe essere utile, no, professore? Potrebbe, sì, diciamo che io vi ho visto lavorare prima della diretta e siete bravissime, avete delle ottime capacità di memoria. Che cosa l'ha colpita tanto? No, ci dica. È il fatto che gestite tantissime informazioni in pochissimo tempo. Secondo me, dato che lui sa che siamo dei casi seri, lui non vuole occuparsi di noi, allora ci fa tutti questi complimenti, esatto, perché sa che se si dovesse mai occupare di noi ci metterebbe molta fatica. E quindi se sentiamo l'ambulanza che arriva, se sentite la sirena tra poco, evidentemente è successo qualcosa per cui il professore vuole portarci via. Allora, tutta parte questi scherzi, insomma. Memoria, testiamola. Facciamo tre domande. Sì. Innanzitutto vi chiedo se capita spesso di dimenticare i nomi delle persone, oppure di dimenticare gli impegni della giornata e sentirsi persi se non abbiamo l'agenda. Oppure ci dimentichiamo le date e le scadenze? Bene. Allora, 800 24 00 24, se avete risposto sì a tutte e tre le domande, se avete risposto sì a due o a una, io a tutte e tre, forse anche qua, se me ne fa un'altra anche a quella. Andiamo dai nostri ascoltatori, abbiamo Paolo da Genova e Ivo dalla provincia di Ancona, ma la scelta spetta a Deborah. No, cominciamo con Ivo, non per campanilismo, non per la sapere. No, ma perché aspetta da un po'. Ivo, benvenuto. Come allena il suo cervello, Ivo? Buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Il bridge è la palestra del cervello, la chiamano. Il bridge, la chiamano, le risulta, professor Iannoccari? Sì, bello complicato. È bello complicato, sì, sì, sì, è un bel gioco. Ivo, lei quante volte gioca la settimana bridge? Beh, due volte alla settimana. È un buon allenamento? È un buon allenamento, sì. Un po' come andare due volte in palestra. Esatto. E altri giochi di carte che allenano come il bridge, quali possono essere? Tutti i giochi allenano, sì. Va bene, l'importante è variare, quindi non fare soltanto un gioco, perché poi si diventa abili e addirittura abitudinari. Ci si siede ogni un po'. Ogni tanto cambiare. Come fa ad esempio un nostro ascoltatore o ascoltatrice che ci scrive: tango e tai chi, e imparare sempre una cosa nuova come le lingue, e ora sta imparando a lavorare ai ferri. Certo che se fosse un uomo farebbe una bella cosa, perché si metterebbe davvero alla prova. Invece hai letto Vittoria che racconta che lei e suo marito hanno avuto due figli e quattro nipoti, e quindi hanno fatto in totale 7 volte le scuole elementari, 7 volte le medie, ora stiamo facendo il liceo, non parliamo delle 5 volte di pianoforte e 1 volta di chitarra, per cui allenatissimi. Professore, abbiamo ancora due funzioni cognitive di cui vogliamo parlare anche dopo i nostri mercati, che sono l'attenzione e la concentrazione. Ci inquadri queste due funzioni su cui che noi diamo un po' per scontate, o che se fanno cilecca, insomma, pensiamo sia un po' inevitabile, perché siamo sottoposti a 1000 stimoli, perché abbiamo tante cose da fare, per cui stare attenti e concentrati. Spesso utilizziamo questi due termini come sinonimi. Allora, ci dia un quadro della situazione. Già abbiamo visto che la nostra memoria ha bisogno di un po' di esercizio di potenziamento. Per quanto riguarda l'attenzione e la concentrazione, che dalla memoria sono le gambe, come ha anticipato lei, che cosa possiamo fare e sapere per avere un quadro e poi magari intervenire? Innanzitutto possiamo intendere l'attenzione come se fosse una luce in una stanza. Sì. Se la nostra attenzione è adeguata, è sufficiente, noi osserviamo tutto quello che c'è nella stanza e possiamo anche poi ricordarlo. Va bene. Se questa luce non è sufficiente, noi faremo fatica anche poi a ricordare che cosa c'era nella stanza. La concentrazione è invece focalizzare, come se fosse un faro che punta a ciò che a noi interessa. La concentrazione ci serve anche per evitare che la mente vada dove vuole, per cui rimanere concentrati è importante. Possiamo fare anche due prove, se vogliamo. Facciamo due prove, che perché così a me poi questo tema piace molto. Io qualche volta faccio un po' fatica, forse per questo eccesso di diversificazione di informazioni che dobbiamo fare. Per me la concentrazione è più difficile. Sì, anche perché abbiamo tantissime informazioni da gestire. Esatto. Però concentratevi sui tempi, perché tra poco ci sono i mercati. Su, facciamo l'esercizio? Professore, okay. Vado. Allora, dirò una lista di numeri. Contate quante volte dico un numero che contiene il 7. Vai. 12, 71, 26, 14, 17, 1, 78, 47, 50, 7, 37, 6. Stop. Cuore e denari. Io mi ogni tanto questa canzone la rispolveriamo. Allora, si quotano in borsa, i fondi comuni di investimento a loro volta investono su azioni, obbligazioni e mercati, ma loro stessi saranno quotati. È una delle tante novità che riguardano l'industria del risparmio gestito, alla quale dedicheremo il nostro approfondimento in Investire Informati, la nostra nuova rubrica che parte alle 11.45. 800 24 00 24, tutto l'ABC dei fondi di investimento. Peraltro proprio oggi celebrano i loro primi 30 anni di storia. A tra poco. Ci ha provato con me e quando gli ho detto di no, dato che stava con una mia amica, oddio, non mi ricordo il suo nome. La ragazza di Stromboli. La ragazza di Stromboli ha un nome. Ah sì, certo. Aspetta, non me lo dire. Marcella. No, Mirella. Sono gocce di memoria. Riprendiamo allora la nostra seduta di allenamento. Memoria, attenzione, concentrazione, queste sono le funzioni cognitive che ci permettono di apprendere bene. Noi ci stiamo infatti preparando alla nostra scuola di risparmio, quindi faremo un'ottima figura, anche perché a prepararci abbiamo un grandissimo esperto, il professor Giuseppe Alfredo Iannocari, che è un neuropsicologo ed è presidente di Assomensano. Una grande palestra, vero? Per i nostri cervelli, e quindi per mantenere sempre giovani e scattanti le nostre funzioni cognitive. Prima di andare agli esercizi, professore, abbiamo parlato di memoria, di attenzione e di concentrazione. Quale di queste tre funzioni cognitive risente di più del passare degli anni? La memoria, l'attenzione, la concentrazione? Col passare degli anni tutte e tre, forse. Sicuramente di più l'attenzione, sì, e la memoria a breve termine. Tra tutte le memorie, quella che ci lascia un po' prima. Poi anche la velocità di elaborazione delle informazioni rallenta. Certo. La buona notizia è che comunque si può fare sempre qualcosa. Assolutamente. Senta, invece l'alimentazione, magari non equilibrata, un po' sbilanciata, ha un effetto, un impatto sulla nostra memoria? Ti ricordi, Deborah, quando ci dicevano le mamme: mangia il pesce che c'è il fosforo, che diventi intelligente? Però qualche cosa di vero c'era. Sì, l'olio di merluzzo, di fegato di merluzzo è un po'. Ma è legata, ecco, la dieta può in qualche modo aiutare il nostro cervello a rimanere efficiente? Direi proprio di sì. Pensiamo ad esempio ai grassi buoni, che poi rivestono i nostri neuroni e li fanno funzionare bene, per cui un'alimentazione adeguata è fondamentale, anche perché incide su quelli che sono, per esempio, i processi di velocità con i quali noi ragioniamo. Quindi alimentarsi bene significa anche ragionare in modo più veloce, avere una buona memoria, va bene, e anche essere più concentrati. Vedi, che cosa mangia lei, professor Iannocari? Mangia dei semi particolari? Noi siamo ormai convertiti ai semi oleosi, noci. Semi di lino, noci, pesce, il pesce grasso, quello con gli omega 3, il pesce azzurro, che costa poco, è buonissimo, e non ci sono. Quindi verdura, foglia verde, anche alimenti rossi, come per esempio i frutti di bosco, che sono molto importanti. Adesso c'è il melograno, che tra l'altro è ricco di vitamina C. Allora, non abbiamo che l'imbarazzo della scelta anche per i nostri ascoltatori che si sono candidati a rispondere al nostro esercizio precedente. In molti lo hanno fatto con l'SMS, però noi adesso prendiamo il primo che invece ha chiamato l'800 24 00 24. Flavio, il gioco del 7, ci dia la soluzione. 6. Professor Iannocari, 6 secco. Perfetto. Facciamo l'applauso. Perfetto. Flavio. Flavio riceverà anche un libro. Cuore o denari, Flavio? Cuori. Cuori? Va bene, allora le arriverà un libro di cuori, con tutto il nostro cuore. Grazie Flavio, complimenti. Ma Flavio è stato bravo, ma adesso, come sempre in ogni scuola, dopo un compito di media difficoltà, un attimo si sale di livello. Professor Iannoccari, siamo pronti? Proponiamo un esercizio dove si chiede di prestare molta attenzione e di rimanere concentrati sulle parole che adesso dirò, perché poi vi chiederò di far qualcosa. Dai, poi fammi copiare. Dai. Allora, le parole sono alba, sì, ruota, casa, radio, naso, pace, raso, resa. Ok, allora, intanto andiamo, ci facciamo distrarre un attimo da Paolo, che ci chiama da Genova, chissà che cosa ci chiederà il nostro... Se è stato attento, magari possiamo fare l'esercizio. Ascoltate, Paolo, sì? Buongiorno. Buongiorno. Che ci racconta lei? Ci dà un suggerimento? Vuole un consiglio? Ma... vuole partecipare a questa? Guardi, vuole sedersi? Io voglio semplicemente farvi ridere un po'. Oh, bravo. Sto guidando adesso, quindi l'attenzione alla intanto guida. Intanto si fermi e se ha l'auricolare, sì, se no non ridiamo per niente. Ecco. Sì, sì. Allora, voglio dire, io ho due qualità nella vita. Una è sicuramente la memoria. Sì. E l'altra non me la ricordo. Sei il burlone, Paolo. Però c'è una frase molto lunga che so leggere facilmente al contrario. Che è: alle carte talleni nella tetracella. E quindi come viene? Alle carte talleni nella tetracella. Ah, al contrario è uguale. Vede che io ho capacità cognitive ancora buone. Ancora. Beh, se lei da 20 anni si esercita sempre con la stessa frase, è un po' facile, però. Bisogna cambiare. Grazie. Bravissima. Grazie Paolo. Paolo. Andiamo da Saverio, che ci chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno, anch'io sono scarso di memoria, però non lo so se il professore lì o chi vuole può usare questo mio. Io lo faccio da sempre, però nessuno riesce. E vanno in confusione, cioè in pratica si tratta di, non so, cantare una canzone, la canzone deve essere abbastanza lineare, altrimenti non viene, cioè praticamente la melodia giusta però una sillaba indietro. No, mi deve far capire e canti Saverio, io se vuole canto con lei, che cosa cantiamo? E con questo? Però ci deve provare, dopo la voglio sentire. Sì. Allora, non so, per una canzoncina che conoscono tutti, non so, per esempio il Maturin di Fiori o Azzurro, per me va bene. Dai, vada, ecco. Vada Saverio. Allora. Quel mazzolin di fiori che vien dalla monta, quel mazzolin di fiori... È facilissimo. Vabbè, allora, sentiamo il professore, sentito parlare, adesso ha delle terapie nuove, volendo per... degli esercizi. Quindi fa sempre con una sillaba. Professore, il canto, imparare dei testi di canzone, adesso come ci ha suggerito Saverio, è sempre che cosa allena? Allena la memoria, ma non solo. Allena la memoria e si avvantaggia anche della prosodia, cioè della nostra capacità di riconoscere la musicalità. E noi siamo molto sensibili a questo. L'aspetto importante è che quando noi impariamo un testo di una canzone, chiamiamo in causa, oltre all'emisfero sinistro dove è depositata la nostra memoria a lungo termine, vedi, anche l'emisfero destro, che appunto contiene le aree dedicate alla musicalità e alla prosodia. Quindi ogni cosa che noi facciamo in realtà, quando ci impegniamo, quando leggiamo, quando ascoltiamo, noi pensiamo di fare una cosa, in realtà tutte delle aree del cervello si mettono insieme, i neuroni si collegano, cercano di attivarsi, di preparare tutta l'attenzione adatta per immagazzinare delle informazioni e poi per restituirle, questo è un po' l'apprendimento. Sì. Radio 24 e anche il Sole 24 ore ci permettono, ci danno modo di allenare i nostri neuroni quotidianamente con la lettura e con l'ascolto, quindi meglio di un tapirulan. Parlo di letture, parlo di ascolto perché solitamente sono gli strumenti, i modi con cui noi intercettiamo le informazioni. Ci dà due indicazioni per potenziare, quindi ad avere un ascolto attivo, che sappiamo che è fondamentale per memorizzare poi i concetti e anche per tirare fuori da un testo, da una lettura, i concetti utili per essere memorizzati e poi ritirati fuori al momento opportuno. Benissimo. Intanto è vero, leggere e ascoltare è come usare gli arti superiori e gli arti inferiori, per cui va benissimo fare entrambi. Radio 24, il Sole 24. Noi abbiamo due canali che ci allenano, certo. Ecco, è importante quello che ha detto Nicoletta riguardo all'ascolto attivo, sì. Che significa fare in modo che quando noi ascoltiamo delle informazioni, queste non passino inosservate, perché noi comprendiamo quello che ci viene detto e molte volte pensiamo che questo sia sufficiente per memorizzare le informazioni. In realtà no, l'ascolto va reso attivo come? Semplicemente attraverso una sorta di eco mentale. Quando io sento un'informazione, riprendo le parole che secondo me sono quelle chiave e le ripeto con la mia voce all'interno della mente. Perché si fissano di più. Si fissano di più, esatto, e vengono salvate, va bene, come se da un flusso di informazioni noi prendiamo quelle che ci interessano e le mandiamo in memoria. Come a dire che bisogna pendere dalle nostre labbra. Professore. E allora vediamo se i nostri ascoltatori, abbiamo ancora un minuto di tempo, hanno memorizzato, hanno fatto attenzione all'elenco delle parole che aveva anticipato il professor Iannoccari, e che cosa devono fare di questo elenco di parole? Riprendiamo l'esercizio delle parole. La sorpresa è questa. Vi chiedo di ricordare, va bene, quali sono le parole che iniziavano con la lettera R come risparmio. Ah, oltretutto R come risparmio, perché andremo tra poco a scuola di risparmio, mancano proprio pochissimi secondi. Allora, il professor Iannoccari ci deve lasciare, ma ci suggerirà sicuramente il numero delle parole esatte che contenevano la R. Voi naturalmente potete chiamarci nel corso della seconda parte della trasmissione per capire se avete indovinato, e vi daremo naturmente però proviamo libro. A sentire se Vittoria da Milano se ne ricorda. Vittoria, è rapidissima, ce la fa? No, non me lo ricordo semplicemente perché mi hanno chiamato qui in strada perché stavo parcheggiando male. Mamma mia. In 3 secondi come esercita la sua memoria, Vittoria? Ah, fantastico, sono appassionatissima di astronomia e purtroppo i nomi delle stelle sono tutti in linguaggio medio orientale, quindi difficilissimo. Per esempio la stella Albireo non mi entrava in testa, allora ho fatto immediatamente questa associazione, un albino reo, e non me lo dimentico più. Un'altra, Deneb, Democrazia Nebulosa, è una bellissima stella sempre nella costellazione del Cigno. Rigel, un'altra stella nella cintura di Orione, cioè nella costellazione di Orione, pardon. E Riga Gelata. Vittoria fa le associazioni, che è uno dei trucchi, non si chiamano trucchi ma insomma degli espedienti per ricordarsi appunto delle parole magari difficili o dei concetti. Allora la nostra amica sicuramente un libro di Cuore Denari che sceglierà, e intanto la salutiamo il professor Iannoccari per questo allenamento magnifico. Io Raso e Resa me li ricordo ma non altro. E un altro ascoltatore si ricorda anche Ruote, insomma poco ce la faremo, alla fine poi le faremo sapere. Anzi, ci ascolti, penda dalle nostre labbra, professor Iannoccari. Grazie mille. Grazie Nicoletta e Deborah, buongiorno a tutti. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, e poi tutti a scuola. Cuore e denari. Allora Nicoletta, tu tutte le istruzioni per un buon allenamento mentale le hai date, quindi adesso non ci sono più giustificazioni? Scuse. No. Possiamo partire con la nostra scuola? Molto volentieri, tutti io sono pronta. Pronti. Dai. Investire informati. E allora una nuova sigletta che ci annuncia la partenza di una nuova iniziativa di Radio 24, nello specifico di Cuore e Denari. Da oggi partiamo con Investire Informati, un percorso che si snoderà lungo ogni giovedì, con il quale cercheremo di intrattenere i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici su temi che sono a loro e a noi, Nicoletta, molto cari, perché andiamo sempre e molto volentieri appunto a parlare di temi di risparmio e di strumenti per risparmiare. Ogni settimana una società o una organizzazione si alterna al nostro microfono per aiutarci a capire le dinamiche che sono spesso complesse, lo sappiamo, degli strumenti di investimento. Quindi ritorneremo su tutti gli argomenti, fondi di investimento, BOT, BTP,